Anna dai capelli rossi, volume secondo, L'età meravigliosa di Lucy Maud Montgomery. Capitolo primo. Una ragazza alta, esile, sui 16 anni e mezzo, con degli occhi grigi e dei capelli che gli amici definivano biondo rame, se ne stava seduta in un bel pomeriggio di agosto sul largo gradino in arenaria rossa che segnava la soglia di una fattoria, nell'isola del principe Edward. Ed era fermamente decisa a tradurre un certo numero di versi di Virgilio. Ma un pomeriggio di agosto, quando la nebbiolina azzurra orla le pendici dei campi dimessi, il venticello bisbiglia birichino tra i pioppi e un'onda splendente di rossi papaveri fiammeggia contro la macchia scura dei giovani alberi, là, in un angolo del giardino dei ciliegi, è più propizio ai sogni che non alle lingue morte. Il libro di Virgilio scivolò ben presto a terra e Anna, con il mento appoggiato sulle mani congiunte, gli occhi fissi alla massa magnifica di nubi fioccose che si andava addensando proprio sopra la casa del signor Harrison come una gran montagna bianca, si perdette in un mondo ideale dove una certa maestra svolgeva un lavoro meraviglioso, forgiando il destino di futuri statisti, instillando nei cuori e nelle menti giovanili ambizioni grandi e sublimi. A dir la verità, se si guardavano le cose come stavano, e Anna lo faceva di rado, a meno che non vi fosse costretta, non sembrava probabile che la scuola di Avonlea fornisse molto materiale suscettibile di futura celebrità, ma non si può mai dire quel che potrà accadere se una maestra decide di usare la sua benefica influenza. E Anna accarezzava in cuor suo certi rosei ideali su quello che è capace di ottenere una maestra se si comporta nel modo corretto. Ed era giusto, nel colmo di una deliziosa scena immaginata di lì a 40 anni, quando un personaggio famoso, perché cosa dovesse essere famoso, veniva lasciato opportunamente nella nebbia, anche se Anna pensava che sarebbe stato rettore magnifico o primo ministro, si chinava profondamente sulla sua mano rugosa e l'assicurava che era stata lei a spronare per prima la sua ambizione e che ogni suo successo nella vita era dovuto alle lezioni che lei gli aveva impartito tanto tempo fa. Alla scuola di Avonlea. Questa piacevole visione svanì a causa di una gradevolissima interruzione. Una piccola, contegnosa mucca Jersey se ne venne trotterellando lungo il viottolo e 5 secondi dopo arrivò il signor Harrison. Per quanto il verbo arrivare sia troppo blando per descrivere il modo in cui fece irruzione dentro il cortile, con un balzo scavalcò lo steccato senza aspettare di aprire il cancello e affrontò la bellicosa, stupefatta Anna che si era alzata in piedi e lo fissava piuttosto sconcertata. Il signor Harrison era il loro nuovo vicino ed ella non l'aveva mai incontrato prima, pur avendolo visto una volta o due. Agli inizi di aprile, prima che Anna tornasse a casa dalla Queen's Academy, il signor Robert Bell, la cui fattoria confinava a ovest con la proprietà dei Cuthbert, l'aveva venduta e si era trasferito a Charlottetown. La fattoria era stata acquistata da un certo signor J. A. Harrison. Di lui si conosceva solo il nome e il fatto che era originario del New Brunswick. Ma non era trascorso un mese da che era arrivato ad Avonlea e già si era fatto la fama di essere uno stravagante. Un eccentrico, diceva la signora Rachel Lynde. La signora Linda era una persona molto franca, come ben sanno quelli tra voi che hanno già avuto occasione di fare la sua conoscenza. Il signor Harrison era senza dubbio diverso dagli altri, ed è questa la caratteristica principale di un eccentrico, come ognuno sa. In primo luogo, si prendeva cura lui stesso della casa e aveva dichiarato pubblicamente che non voleva avere tra i piedi delle donnicciole. La popolazione femminile di Avonlea si vendicò propalando racconti raccapriccianti su come egli sbrigava le faccende domestiche e su come cucinava. Aveva assunto come aiuto il piccolo John Henry Carter di White Sands e fu proprio John Henry a dare l'avvio ai pettegolezzi. Tanto per dirne una, a casa di Harrison non c'era mai un'ora fissa per il pranzo o la cena. Quando aveva appetito, il signor Harrison mangiava un boccone e se in quel momento John Harry era nei paraggi, gli accadeva di avere la sua parte, in caso contrario, doveva aspettare finché la fame di Harrison fosse tornata a farsi sentire. John Harry dichiarava in tono lugubre che sarebbe morto di fame se non fosse andato a casa sua, la domenica, a rimpinzarsi e che la madre gli consegnava sempre un cestino di cibari da portare con sé il lunedì mattina. Quanto a lavare i piatti e a rigovernare, il signor Harrison non faceva neppure finta di farlo, finché non capitava una domenica di pioggia. Allora si metteva al lavoro e lavava tutte le stoviglie nella botte dell'acqua piovana, lasciandole poi lì ad asciugare. E poi il signor Harrison era tirchio. Quando gli era stato chiesto di sottoscrivere una quota per lo stipendio del reverendo Allan, aveva detto che voleva prima aspettare e vedere quanto bene avesse ricavato dalle sue prediche. Non era uno che comprava alla cieca lui, e quando la signora Linde andò a trovarlo per chiedergli un contributo per le missioni, e dal momento che c'era per dare un'occhiata all'interno della casa, le aveva risposto che c'erano più pagane tra le vecchie comari che spettegolavano ad Avonlea che in qualsiasi altro posto di sua conoscenza e che sarebbe stato ben lieto di contribuire a farle diventare cristiane se lei si fosse data la briga di provvedere. La signora Rachel se ne andò e disse che era una fortuna che la povera moglie di Robert Bell giacesse tranquilla nella tomba, perché le si sarebbe spezzato il cuore nel vedere in che stato era ridotta la sua casa, della quale andava sempre tanto orgogliosa. Che diamine, era sempre lì a fregare il pavimento della cucina, un giorno sì e uno no, e lei lo vedesse ora, ho dovuto tirarmi su le sottane per poter camminare. Infine, il signor Harrison possedeva un pappagallo di nome Ginger. Nessuno mai ad Avonlea aveva posseduto un pappagallo prima di allora. Di conseguenza, un'abitudine del genere era considerata ben poco rispettabile. E che pappagallo! A credere sulla parola a John Henry Carter, mai si era visto uccello più sacrilego. Bestemmiava tremendamente. La signora Carter avrebbe immediatamente riportato a casa il suo John Harry se fosse stata sicura di potergli trovare un'altra sistemazione. Per di più, Ginger aveva dato una gran beccata alla nuca di John Harry un giorno che lui si era avvicinato troppo alla gabbia. La signora Carter mostrava a tutti la cicatrice quando l'infelice John Harry veniva a casa la domenica. Tutte queste cose balenarono per la mente di Anna mentre il signor Harrison, apparentemente muto per la rabbia, rimaneva in piedi fronte a lei. Neanche quando era del miglior umore, il signor Harrison avrebbe potuto essere considerato un bell'uomo. Era piccolo, grasso e calvo, e ora, col viso rotondo paonazzo per l'ira e gli occhi azzurri sporgenti quasi fuori dall'orbita, Anna pensò che era veramente l'essere più brutto che avesse mai visto. Di colpo, il signor Harrison ritrovò la voce. «Non ho intenzione di tollerare questo fatto neanche un giorno di più», farfugliò. «Mi intende, signorina? Bontà divina, questa è la terza volta, signorina, la terza volta! Ho perduto la pazienza, signorina! Avevo avvertito la zia l'ultima volta che non doveva più accadere e non mi ha dato ascolto. È accaduto di nuovo! Che cosa intende fare? Ecco quel che vorrei sapere. Ecco perché sono venuto qui, signorina!» «Vuole spiegarmi di che cosa si tratta?» chiese Anna con fare piuttosto sostenuto. Ultimamente si era molto esercitata nell'apparire sostenuta e piena di dignità per essere pronta all'inizio delle scuole, ma ciò non ebbe effetto apparente sull'irato signor Harrison. Di che si tratta? Bontà divina di un guaio, a parer mio! Il fatto è, signorina, che meno di mezz'ora fa ho pescato di nuovo nel mio campo d'avena la mucca Jersey di sua zia. E la terza volta, noti bene, ce l'ho trovata martedì scorso e di nuovo ieri sono venuto qui a dire alla zia di provvedere perché il fatto non si verificasse, ma lei non ha provveduto. Dov'è sua zia? Vorrei vederla solo un minuto e cantargliene chiare, signorina, dirle quello che pensa il signor Harrison. Se intende parlare della signorina Marilla Cuthbert, le dirò subito che non è mia zia e che è andata a East Crefton a trovare una sua lontana parente che è molto ammalata, disse Anna, sottolineando ogni parola con tono sempre più sussiegoso. Mi dispiace molto che la mia mucca abbia fatto irruzione nella sua vena. Quella mucca è mia, non della signorina Cuthbert. Me l'ha regalata Matthew 3 anni fa, quando era ancora una vitellina e l'aveva comperata dal signor Bell. Guardi, signorina, con le scuse non si rimedia proprio a nulla. È meglio che lei vada a vedere di persona i disastri che quella bestia ha combinato nel mio campo. La vena è tutta calpestata, a partire dal centro, lungo tutto il confine. Mi dispiace molto davvero, ripeté Anna con decisione, ma forse se lei provvedesse meglio alla manutenzione dello steccato, Dolly non sarebbe riuscita a entrare. Lo steccato, dico, che separa il suo campo di avena dal nostro pascolo. Ho notato l'altro giorno che non era per niente in buone condizioni. Il mio steccato è in ordine, sbottò il signor Harrison, sempre più irritato di fronte a questo modo di ritorcere le accuse. Non c'è steccato che basti a tenere fuori una vacca indemoniata come quella, e lasci che le dica, cara la mia mocciosetta dai capelli rossi, che se la vacca è sua farebbe meglio a badare a tenerla fuori dai campi altrui, invece di starsene lì seduta a leggere romanzacci. Aggiunse con un'occhiata rovente all'innocente Virgilio dalla copertina marrone chiaro che giaceva ai piedi di Anna. A sentir nominare i suoi capelli, che erano sempre stati il suo punto vulnerabile, Anna vide rosso. Preferisco avere i capelli rossi che non averne affatto, salvo qualche ciuffetto vicino alle orecchie, ribatté avvampando. Il colpo andò a segno, giacché il signor Harrison era molto sensibile alla sua calvizie. La rabbia lo soffocò nuovamente e riuscì soltanto a fissare torvo e senza parole Anna, che, calmatasi, sfruttò subito il vantaggio ottenuto. Posso concederle delle attenuanti, signor Harrison, perché ho fantasia io. Posso facilmente immaginare quanto sia stato penoso per lei trovare una mucca tra la vena e non le serberò rancore per le cattiverie che ha detto. Le prometto che Dolly non entrerà mai più nel suo campo. Le do la mia parola d'onore. Beh, veda di evitarlo, borbottò il signor Harrison in tono più pacato, ma poi se ne andò battendo i piedi ancora incollerito e Anna lo udì brontolare tra sé e sé finché fu lontano. Assai turbata, Anna attraversò a passo di marcia il cortile e rinchiuse la malvagissima Jersey nel recinto per la mungitura. Non può più uscire di lì a meno che non faccia pezzi lo steccato, rifletté. Ora sembra abbastanza tranquilla, si direbbe che si sia stufata di quella vena. Come vorrei averla venduta al signor Shearer che la voleva la settimana scorsa, ma ho pensato che tanto valeva aspettare e venderla all'asta insieme con il resto del bestiame. Credo sia vero che il signor Harrison è un eccentrico, quel che certo è che non è uno spirito affine. Anna era sempre pronta a captare uno spirito affine. Mentre Anna tornava verso casa, Marilla Cuthbert stava entrando con il calesse nel cortile. Anna corse a preparare il tè e, mentre lo sorseggiavano, discussero della faccenda. Sarò contenta quando l'asta sarà finita, disse Marilla. È una responsabilità troppo grossa avere tutto questo bestiame e nessuno che gli badi, tranne Martin, di cui c'è ben poco da fidarsi. Non è ancora tornato e aveva promesso che sarebbe stato di ritorno ieri sera se gli avessi dato la giornata libera per assistere al funerale di sua zia. Non so quante zie abbia, però è la quarta che muore da quando l'abbiamo assunto un anno fa. Ah, tirerò un bel sospiro di sollievo quando sarà finito il raccolto e il signor Barry rileverà la fattoria. Dovremo tenere Dolly chiusa nella stalla finché Martin ritorna. È meglio che mandarla al pascolo. E poi là bisogna aggiustare il recinto, siamo proprio in un mondo di guai, come dice Rachel. C'è la povera Mary Keith in fin di vita e cosa accadrà dei suoi due bambini? Non lo so davvero. Ha un fratello nella Columbia Britannica e gli ha scritto dicendogli come stanno le cose, ma lui non ha ancora risposto. Come sono i bambini? Che età hanno? Oh, poco più di 6 anni, sono gemelli. Oh, ho sempre avuto un particolare interesse per i gemelli, da quando stavo con la signora Hammond che ne aveva tanti, disse Anna entusiasta. Sono carini? Oh, santo cielo, non saprei dirtelo, erano troppo sudici. Davy era rimasto fuori a far torte di fango e Dora è andata a chiamarlo. Davy dapprima le ha cacciato la testa nella torta più grossa e poi, visto che lei piangeva, vi ha infilato la sua e ve l'ha voltata giusto per mostrarle che non c'era nulla da piangere. Mary ha detto che Dora è davvero una brava bambina, ma che Davy è una birba matricolata. Si direbbe che nessuno si sia mai dato la pena di educarlo. Suo padre è morto quando era piccino e da allora Mary è stata quasi sempre ammalata. Mi addolora sentir parlare di bambini che non hanno ricevuto una buona educazione, sospirò Anna gravemente. Sai bene che anch'io ero così quando sei arrivata tu a farmi rigar dritto. Spero che se ne occupi lo zio. Com'è che sei parente della signora Kit? Di Mary? Non siamo affatto parenti noi due. Suo marito era nostro cugino di terzo grado. Ecco, ah, ecco la signora Lind che attraversa il cortile. Oh, non dirle del signor Harrison e della mucca, implorò Anna. Marilla promise, promessa assolutamente inutile, giacché non appena la signora Lind si fu accomodata, disse subito: Ho visto il signor Harrison inseguire la vostra mucca Jersey, tentando di scacciarla dal suo campo oggi, quando tornavo da Carmody. Pareva avere un diavolo per capello. È venuto a fare una chiassata, sì o no? Anna e Marilla si scambiarono furtivamente uno sguardo divertito. Poche cose ad Avonlea sfuggivano alla signora Lind. Appena quel mattino Anna aveva detto: Se tu andassi nella tua stanza a mezzanotte e chiudessi la porta a chiave e tirassi il paletto e starnutissi, l'indomani la signora Lind ti chiederebbe come va il tuo raffreddore. Mi sa proprio di sì, ammise Marilla. Io non c'ero, ha detto chiaro e tondo ad Anna come la pensava. È una persona piuttosto sgradevole, disse Anna, scuotendo risentita la sua chioma rossa. Verità sacrosanta, confermò solennemente la signora Rachel. Lo sapevo che ci sarebbero stati guai quando Robert Bell vendette la proprietà a uno del New Brunswick. Proprio così. Non so come diventerà Avonlea con tutta questa strana gente che vi bazzica. Vedrete, poco ci manca e nessuno sarà più tranquillo neanche nel proprio letto. Come? Chi altri mai deve arrivare di estraneo? Chiese Marilla. Non lo sai? Beh, certi Donnell, tanto per dirne una, hanno affittato la vecchia casa di Peter Sloan. Peter ha affidato al marito la gestione del mulino, vengono dall'est, laggiù, e nessuno ne sa niente. Poi c'è la famiglia di quell'inconcludente di Timothy Cutton, che si trasferisce da White Sands e non saranno altro che un peso per la comunità. Lui è tubercolotico e ruba. E la moglie è una fannullona trasandata che non è capace di fare nulla, lava i piatti stando seduta. La moglie di George Pye si è presa in casa il nipote orfano di suo marito, Anthony Pye. Verrà a scuola da te, Anna, preparati ad avere guai. Proprio così, e avrai anche un altro alunno che non è di qui, Paul Irving. Viene dagli Stati Uniti e va ad abitare dalla nonna. Ti ricordi suo padre, Marilla, Stephen Irving, quello che piantò Lavendar Lewis di Grafton? Non credo che l'abbia piantata. Litigarono, penso che ne avessero colpa tutti e due. Beh, comunque non l'ha sposata e da allora è diventata sempre più stravagante, dicono. Vive tutta sola in quella piccola casa di pietra, quella che lei chiama la casa dell'eco. Steven se ne partì per gli Stati Uniti ed entrò in affari con suo zio. Ha sposato un'americana. Non è mai più tornato qui da allora, anche se sua madre è andata a trovarlo una volta o due. La moglie è morta 2 anni fa e ora manda il ragazzo a casa da sua madre per un certo periodo. Ha 10 anni e non so se sarà uno scolaro ideale, non si sa mai con questi americani. La signora Lind considerava tutti coloro che avevano avuto la disgrazia di nascere o di essere allevati in luoghi che non fossero l'isola del principe Edward con l'aria decisa del non potrà mai venirne nulla di buono. Poteva anche trattarsi di brava gente, è ovvio, ma era meglio non correre rischi e dubitarne. Aveva un pregiudizio particolare nei confronti degli americani. Suo marito era stato truffato una volta di $10 da un suo datore di lavoro a Boston e né angeli, né principati, né altre potestà avrebbero potuto convincere la signora Rachel che non vi fossero coinvolti al completo gli Stati Uniti. La scuola di Avonlea avrà tutto da guadagnare con dei nuovi elementi, disse Marilla seccamente. E se il ragazzo assomiglia minimamente a suo padre, sarà bravissimo. Steve Irving era il ragazzo più simpatico e beneducato che ci sia mai stato da queste parti, anche se qualcuno gli dava del superbo. Credo che la signora Irving sarà ben felice di tenere il piccolo, da che il marito è morto, è rimasta molto sola. Oh, il ragazzo può essere bravo quanto vuole, ma sarà diverso dai ragazzi di Avonlea. Disse la signora Rachel come se con questo avesse chiuso l'argomento. Le opinioni della signora Rachel nei riguardi di qualsiasi persona, luogo o cosa erano sempre definitive. E cos'è questa storia di creare una società per il progresso del villaggio, Anna? Ah, ne ho giusto parlato con alcuni ragazzi e ragazze all'ultima riunione del circolo culturale, disse Anna arrossendo. Pensavano che sarebbe una cosa simpatica anche il signore e la signora Allan. Esistono già in parecchi paesi ormai. Beh, se lo farai, Anna, ti metterai in un mucchio di guai. Meglio lasciar perdere. Proprio così, alla gente non piace essere migliorata. Oh, ma noi non abbiamo intenzione di migliorare la gente. Si tratta di Avon Lee. Si potrebbe fare un sacco di cose per migliorarla, renderla più carina. Se per esempio riuscissimo a persuadere il signor Levi Balter a fare qualcosa per la comunità, senza essere pagato per farlo, avvertitemi che voglio assistere alla scena. Proprio così, non voglio scoraggiarti, Anna, perché può darsi che ci sia del buono nella tua idea, per quanto immagino che tu l'abbia tratta da qualche sciocca rivista americana, ma avrai il tuo bel da fare con la scuola e se vuoi un consiglio d'amica, non impelagarti con il progresso. Proprio così. D'altronde so che se te lo sei messo in mente lo porterai avanti il tuo progetto. Sei sempre stata il tipo da fare le cose fino in fondo, tu. Qualcosa nella linea ferma delle labbra di Anna rivelava che la signora Rachel non aveva poi espresso un giudizio tanto lontano dalla verità. Anna era decisa con tutta l'anima a fondare la società per il progresso. Gilbert Blythe, che pur avendo ottenuto l'incarico di insegnante a White Sands, sarebbe stato sempre in paese dal venerdì sera fino a lunedì mattina, ne era entusiasta. La maggior parte dei giovani era ben disposta ad occuparsi di qualunque cosa richiedesse ogni tanto delle riunioni e di conseguenza desse loro l'occasione di divertirsi. Quali che fossero poi i miglioramenti, nessuno ne aveva un'idea molto chiara, ad eccezione di Anna e Gilbert. Ne avevano parlato e riparlato, facendo e disfacendo progetti, tanto che un Avon Lee ideale esisteva, se non altro, nelle loro menti. La signora Rachel, però, teneva in serbo un'altra novità. La scuola di Carmody è stata assegnata a una certa Priscilla Grant. Non avevi una compagna alla Queen's Academy che si chiamava così, Anna? Sì, certo, Priscilla che insegna a Carmody, che bellezza, come sono contenta! Esclamò Anna mentre gli occhi grigi le si accendevano talmente da sembrare due stelle della sera, al punto che la signora Linde fu ancora una volta indotta a chiedersi se mai sarebbe riuscita a risolvere con soddisfazione quel problema che si era posto da tanto tempo. Anna Shirley era o non era una bella ragazza?